10 città, 10 concerti, 10 anni di carriera e 10 donne da omaggiare. Il 10 è un po' la chiave per capire l'intervista impossibile che vi proponiamo oggi. Anzi, che vi propongo oggi. Devo dirvi che sentirete solo la mia voce, perché Mauro è andato a vedere l'Atalanta. Sì, è un tifoso e ha deciso di lasciarmi a intervistare un artista con la quale parleremo però proprio di donne. Forse è scappato apposta, chi lo sa. L'artista di oggi è Erika Mu e con lei chiacchiererò del progetto che in questi giorni è in giro per l'Italia e che venerdì 8, quindi tra pochissimi giorni, sarà al Vibra di Modena. Questo progetto ha un nome molto interessante che ci spiegherà meglio appunto la stessa Erika. Il progetto si chiama Grazie dei Fiori e sono 10 tappe in giro per l'Italia dove Erika salirà sul palco accompagnata da una figura femminile. Cioè accompagnata metaforicamente, devo spiegarmi meglio. Infatti ogni live sarà dedicato a una figura che ha fatto la storia nel suo campo, non solamente quello musicale. Infatti, per ogni tappa si parlerà ad esempio di Marina Abramovic, che ha fatto la storia dell'arte contemporanea, ma anche di Margherita Hack, ad esempio, che è riuscita a inserire e spiegare il genere femminile nel mondo della scienza. Ad esempio anche Donatella Versace sarà sul palco con Erika Mu, oppure tantissime altre artiste. Lascerò a lei la parola per raccontarvele meglio. Vi ricordiamo che Erika Mu, appunto, tra pochissimi giorni sarà presente sul palco del Vibra di Modena, quindi a pochissimi chilometri da qui. Noi speriamo di vedervi tutti sotto palco e io ho colto l'occasione per chiederle un po' della sua storia e un po' cosa l'ha influenzata e cosa l'ha portata a parlare di donne in maniera non femminista. Infatti lei ci tiene a specificare anche questa cosa. Io adesso vi lascio ascoltare un suo pezzo e poi torno con la voce di Erika. Grazie per averci ascoltato. Svuoto i cassetti di questa casa imperfetta e penso a quando sono stata stretta nei panni che non erano i miei. Chi la salverà? Erika spaesata. Chi se la porterà a casa? Chi le darà la mano per strada? La scalderà in una stanza gelata? Chi la metterà in guardia dagli sconosciuti e le aprirà i barattoli chiusi? Chi le farà da mangiare? Chi le regalerà un anello a Natale? Chi la inviterà a ballare? La porterà al mare, le insegnerà a nuotare? Chi se la piglia in famiglia? Chi la striglia quando sbaglia? Chi la consiglia? Chi la calmerà dopo gli incubi di notte? Chi le reggerà la fronte? Chi le asciugherà le guance? La porterà in braccio per le scale quando dorme? Scuoto i cassetti di questa casa imperfetta e penso a quando sono stata stretta nei panni che non erano i miei. Scuoto i cassetti di questa casa imperfetta e penso a quando sono stata stretta nei panni che non erano i miei. Chi le salverà questa figlia di papà? Chi si andrà al cinema insieme? Chi le spegnerà la luce e le canterà sottovoce? Chi le allaccerà le scarpe? Chi le presterà le dita per contare? Chi le insegnerà la vita? La porta a spasso nel parco, guinzaglio e bavaglio, Nina, oh. Questa bimba ti la do, un po' a me, un po' a te, solo nei weekend. Chi le dà aiuto e non le crederà quando grida all'uomo, all'uomo. Che cuore grande hai per amarmi meglio? Che occhi grandi hai per leggermi dentro? Che bocca grande hai per mordermi? Svuoto i cassetti di questa casa imperfetta e penso a quando sono stata stretta nei panni che non erano i miei. Svuoto i cassetti di questa casa imperfetta e penso a quando sono stata stretta nei panni che non erano i miei. Vivo da sola senza nessuno da difendere, senza nessuno da deludere, senza nessuno che mi svuota i cassetti di questa casa imperfetta. svuoto i cassetti di questa casa imperfetta e penso a quando sono stata stretta nei panni che non erano i miei. Svuoto i cassetti di questa casa imperfetta e penso a quando sono stata stretta nei panni che non erano i miei. La nostra ospite di oggi si chiama Erika. Ciao Erika, benvenuta da noi. Ciao. A Radio Città Fujiko. Grazie per essere qui con noi per parlare del tuo nuovo progetto, il tour che tra pochissimo sarà vicino a noi, non a Bologna ma a Modena, giusto venerdì? Giusto, sarà al Vibra a Modena. E il progetto si chiama Grazie dei Fiori e io sono Erika Mu e la... Questo è un concerto diverso dai soliti, da quelli che ho fatto finora, perché è un concerto che è anche uno spettacolo, in cui ogni serata in una scaletta costruita, insomma apposta di sera in sera, omaggio insieme alle mie canzoni una figura femminile che per me è stata un po' rivoluzionaria per quello che ha fatto nella storia. Perfetto, allora io per iniziare ti chiederei come mai hai scelto questo nome, Grazie dei Fiori, che è una cosa, una frase molto carina che rimanda anche a una canzone storica, insomma, no, della musica certo. italiana, che però è anche un messaggio che al femminile, soprattutto in questo momento storico, ha un peso molto importante, no? Sì. Quindi proprio volevo chiederti come mai hai scelto questa frase e che storia c'è dietro magari a queste parole. Io sono una grande, chiaramente non è, sono una grande fan della figura di Nilla Pizzi, cioè credo sia stata un po' un monumento per la canzone italiana, quindi senz'altro un omaggio a lei, anche se Nilla Pizzi non è tra le donne che raccontiamo, però è una artista a cui io mi sono sempre ispirato, ho fatto spesso delle cover e quindi mi faceva piacere fare un omaggio a lei, che tra l'altro è la prima vincitrice del Festival di Sanremo, quindi possiamo dire che la musica leggera in Italia un po' nasce con Nilla Pizzi. E poi, come hai detto tu, ecco, questa è una frase che racchiude tutto, perché racchiude la gratitudine, che è il senso di fare un omaggio. Cioè, noi andiamo a ringraziare queste donne per i fiori che hanno lasciato a noi. E poi racchiude, insomma, il fiore, che oltre ad essere chiaramente un grande richiamo alla femminilità, è anche il concetto proprio dello sbocciare, di lasciare qualcosa, di qualcosa di propedeutico al frutto che magari noi di queste donne adesso stiamo raccogliendo. Tu in particolare con questo progetto, direi. Ti chiederei intanto se hai voglia di dirmi chi sono le donne che hai raccontato in questo progetto, in Grazie dei Fiori. Sì, allora, le prime cinque tappe sono già passate e abbiamo raccontato Mia Martini, Marina Abramovic, Bebe Rio, Raffaella Carrà e Staffo. Le prossime cinque, che però non vi dico come sono distribuite, saranno Margherita Hack, Jane Goodall, Anna Magnani, Donatella Versace e Nina Simone. Perfetto, tra l'altro non solamente musiciste, cioè donne che comunque hanno spiccato, comunque si sono costruite un nome in un qualche modo in un mondo fatto prevalentemente di maschi, la scienza ad esempio, anche nell'arte, sì, non deve essere stato facile per una donna. Sì, noi diciamo, credo che appunto proprio nella scienza possa essere uno degli ambiti più difficili, quello di Margherita Hack e di Jane Goodall, che hanno fatto poi hanno lasciato veramente un segno anche nelle scoperte che hanno fatto, e Jane Goodall tuttora porta avanti il suo messaggio, che è stato ben raccolto dalle nuove generazioni, no? Noi nello spettacolo diciamo che un po' Greta Thunberg è un po' erede del messaggio che Jane Goodall porta avanti da tanti anni. Perfetto, allora guarda, io in questo momento faccio partire un pezzo e poi torno con te per farti delle altre domande. This street is a face in the forest, in a land where I belong. We traced a trail in silver from the place that I call home. I know we are made of one another, like fruits we only fall to find new ground. Part of me me she wants to be together. Every circle grows more each time we draw around. This fall is a ring in the timber. It's a space for us to roam. We carved the spring in amber for the man to guide me home. Is a face in the forest. This tree is a face in the forest. This tree is a ring in the forest. This tree is a ring in the forest. Is a ring in the forest. Torniamo e io ti chiederei qualcosa. Facciamo un passo indietro in un qualche modo. Ti chiederei com'è nato questo progetto, quindi l'idea, come ti è venuta, e in seconda battuta ti vorrei anche chiedere chi è il tuo modello femminile, che mi sembra molto, molto interessante riguardo questo progetto. Allora, l'idea mi è venuta perché sento che un po' io, ma anche tutte le mie colleghe, c'è un movimento proprio generazionale di voglia di un nuovo tipo di femminismo, cioè un femminismo che non è assolutamente voler rivendicare una superiorità di sesso, ma una parità nel senso proprio più puro del termine, cioè basta con le ingiustizie sociali che affrontiamo nella nostra professione, nella nostra quotidianità, ma non facendolo, diciamo, non parlando di queste tematiche piangendoci addosso. Quella è una fase che per me si è conclusa. Noi che siamo un po' privilegiate di vivere in un Occidente tutto sommato libero, credo che possiamo concentrarci sul proporre dei modelli virtuosi, no? Lasciare che le nostre storie parlino da sé. E quindi, diciamo, per me Grazie dei Fiori è questo senso qua, cioè raccontare che cosa delle donne hanno mosso, sono poche, ce ne sarebbero molte di più, hanno mosso nel loro settore, e soprattutto raccontare 10 donne che sono totalmente diverse tra loro, anche a livello proprio di ideologie o di io dico sempre Donatella Versace e Anna Magnani nell'estetica, sono veramente proprio due opposti, no? Andiamo a raccontare entrambe, andiamo a raccontare Sasso e De Vio, quindi partiamo dal VI secolo avanti Cristo e finiamo praticamente nel futuro, perché io ci tengo tanto a sottolinearlo anche durante lo show, non è le donne non sono tutte uguali, ed è la disparità in qualunque campo, nasce sempre quando tu vedi una massa di persone piatta, quando pensi che parlare di una donna valga per tutte le altre. E quindi, insomma, per me la parità nasce sempre dalla riconoscenza dell'uno prima che di un gruppo. È un bellissimo messaggio, mi piace molto, infatti poi da donna lo apprezzo ancora di più. Cioè, poi vale per tutto, sì. Erika, perché poi anche quando dici, no, gli immigrati, è così, li hai appiattiti, cioè non parli più di storie individuali, no, parli di di una massa di gente che è altra da te, no? La cosa che io spero sempre quando sento questi progetti che puntano molto al far riconoscere l'individualità e le particolarità di qualcuno è che anche attraverso argomenti come la musica, che uno vede come una cosa leggera, no, per svagarsi, pian piano invece si riesca a cambiare la mentalità. Dai, io questo, cioè io sono un artista. E cosa vuol dire questa cosa? A parte che, come dice Nina Simone, non puoi essere artista e non riflettere sul tuo tempo. Però che cosa vuol dire anche? Che quello che io posso darti è qualcosa che un altro non potrà. Cioè l'arte è soltanto individualità, perché alla fine di canzoni d'amore quante se ne sono e quante se ne saranno, no? Se noi pensiamo soltanto al contenuto piatto, allora niente ha più senso dopo Petrarca, che ne so. Se invece pensiamo che ognuno di noi ha un occhio unico, speciale sulla vita e che questo occhio speciale viene dalla propria storia personale mischiata con la propria interiorità e i propri pensieri, allora ha senso anche essere un artista. Quindi credo che la musica possa veramente portare avanti questo messaggio in maniera molto coerente e forte. Perfetto, io ti chiedo allora, ti sei dimenticato un pezzo modello, che ti avevo chiesto, io so che vuoi scappare da questa domanda, lo so. Domanda. Io ti dico che off topic rispetto a queste 10 donne, sì, il bis di questo concerto è affidato sempre a mia nonna Lina, che è la voce registrata che portiamo con noi, che mia nonna Lina canta da paura. Mm. E perché però non canta con te? Dovrebbe venire sul palco a cantare la nonna. Credo che mia nonna, il viaggio più lontano che ha fatto della sua vita è stato andare a Lecce, ed è di Minervino Murge, quindi insomma parliamo di distanze veramente piccole, quindi non credo che se la sentirebbe, però... Questo per dirti che io ho avuto come modello le donne della mia famiglia, le mie nonne e mia madre. Ho vissuto in una famiglia molto molto femminile e da loro ho capito tanto. Sono tre donne veramente diverse e mia madre in particolare, che mi manca molto e che non c'è più, a cui tra l'altro questo spettacolo è ispirato, è una figura importantissima per la mia vita. Lei insieme a Mary Poppins. Ah, perfetto, un'ottima combinazione. Bene, allora per salutarci io ti chiedo due cose. In primo luogo, se hai voglia di mandare un messaggio ai nostri ascoltatori. Amici di Radio Città Fusico, io vi aspetto a Modena, comunque vi aspetto sulle frequenze della vostra Radio del Cuore. Oh, grazie, perfetto. Sei stata molto gentile. Allora per salutarci io ti lascerei la palla e ti lascerei scegliere che canzone usare per chiudere questa nostra chiacchierata. Andrea, io chiuderei con la canzone con cui lo spettacolo inizia. Lo spettacolo inizia con una cover di una canzone del 1971 di Rossana Fratello, che ho prodotto insieme a Magiker, che è un musicista che vedrete anche sul palco con me, un musicista inglese, ed è un piccolo pezzo dell'emancipazione della donna in Italia già all'epoca, e ovviamente parliamo di Sono una donna, non sono una santa. Allora, noi ci salutiamo con questo pezzo, tra l'altro ringraziamo anche i musicisti che saranno sul palco con te e ricordiamo che venerdì sarai al Vibra di Modena, quindi tra un paio di giorni ci vedremo a pochi chilometri da Bologna e poi ti seguiremo anche per le prossime tappe. Grazie mille. Grazie, grazie a voi, ciao. Sono una donna, non sono una santa. Non tentarmi, non sono una santa. Non mi portare nel bosco di sera. Ho paura nel bosco di sera. Tra tre mesi te lo prometto, che il mio amore tu lo avrai. Ti assicuro non è un dispetto, ogni cosa a suo tempo lo sai. Tre mesi sono lunghi da passare, quando l'amore stuzzica il tuo cuore. Ti prego amore mio, lasciami stare, se no non ce la faccio ad aspettare. Sono sola, ho quattro fratelli. Non scordare che ho quattro fratelli. Dove sei stata? La gente ti guarda. Resta in casa, la gente ti guarda. Tra tre mesi saremo in maggio e il mio amore io ti darò. Gesù mio, dammi il coraggio di resistere a dirgli di no.